Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. Olimpia e gli europei di calcio, questo è il viaggio che stiamo facendo in queste settimane in cui si sta svolgendo il torneo di Francia 2016. E allora, oggi voglio raccontarvi la storia di quell'europeo del 1968 in cui l'unico nella storia vincemmo proprio noi azzurri, che lo ricordo siamo del resto anche vice campioni in carica. E poi invece vivremo una delle pagine più amare del nostro calcio a livello di campionati europei, cioè l'edizione del 2004 in Portogallo, in cui gli azzurri vennero clamorosamente eliminati al primo turno. E allora andiamo subito a Roma nel 1968. How many roads must a man walk down before you call him a man? In America e in Europa soffia il vento della contestazione contro la guerra del Vietnam, che infiamma le università statunitensi e del vecchio continente. A marzo, nei giorni del massacro di Mylai, le proteste antirusse in Polonia portano alla caduta del governo Gomulka. Il 4 aprile a Memphis viene ucciso Martin Luther King, il 5 giugno Bob Kennedy a San Francisco. Intanto Praga continua a vivere la breve e intensa stagione della sua primavera rivoluzionaria. È l'estate del 1968. In Italia, sotto le ceneri della rivoluzione dei costumi, cova l'incendio dello scontro tra gli estremismi di destra e sinistra. Nelle fabbriche nascono molti comitati unitari di base, polizia e studenti si fronteggiano nelle piazze. È in questo clima che il nostro paese ospita la terza edizione dei campionati europei di calcio. Il Milan di Rocco ha conquistato campionato e Coppa delle Coppe, ma ora tocca alla nazionale. Gli azzurri, sulla cui panchina siede Ferruccio Valcareggi, hanno la grande occasione di riscattare l'eliminazione subita 2 anni prima nei mondiali inglesi per mano della Corea del Nord. La qualificazione ai quarti di finale è piuttosto agevole. Gli azzurri, guidati da Rivera e Mazzola, restano imbattuti nelle 6 gare contro Cipro, Svizzera e Romania. Ad aprile però si soffre contro la Bulgaria. Sconfitta a Sofia per 3-2 nella gara d'andata e privata del libero dell'Inter Picchi, che si infortuna gravemente, l'Italia ribalta la situazione nel ritorno a Napoli grazie ai gol di Prati e Domenghini. Il 5 giugno, sempre a Napoli, l'Italia affronta in semifinale l'Unione Sovietica. Nell'altra semifinale si sfidano Jugoslavia e Inghilterra. Il risultato, anche dopo i supplementari, non si sblocca dallo 0-0. A decidere il nome della finalista sarà il lancio della monetina. Sandro Mazzola, uno dei protagonisti di quella gara, rivive quegli istanti. Dopo un minuto Rivera si fece male, allora non c'erano le sostituzioni. Sapevamo che il capitano Facchetti era uno che in qualunque lotteria qualcosa vinceva, e che era fortunato, e quindi eravamo sicuri che avrebbe vinto. Però chiaro che erano minuti di grande tensione, eravamo stanchi morti, perché giocare in 10 contro quelli lì, che erano di forza fisica notevole, fu uno sforzo incredibile. So che io ero il centravanti, ma giocai davanti alla difesa tutta la partita, Prati anche. Quindi proprio una tensione enorme aggiunta alla stanchezza. Il lancio della fatidica monetina avviene nello stanzino dell'arbitro tedesco Teinscher, alla presenza dei capitani Facchetti e Shesternev. Le speranze degli azzurri sono confermate dall'urlo di gioia del capitano. Il sorteggio è stato favorevole. L'Italia vola in finale contro la Jugoslavia, che ha superato per 1-0 gli inglesi. Sabato 8 giugno 1968 all'Olimpico di Roma, Italia e Jugoslavia si affrontano per il titolo. Le cose si mettono subito male per gli azzurri, bloccati dalla tensione e impacciati contro una Jugoslavia veloce e determinata. Zajc al 39esimo batte Zoff e porta in vantaggio gli slavi. Il pareggio arriva solo all'80esimo grazie a una magia di Domenghini su punizione. Direi che è stato un calcio di punizione dove ho fatto questo tiro così, inventando un po' il terno al lotto, dove passò sotto la barriera e poi riuscì ad andare. Direi che è stato un po' un colpo di fortuna, dove poi quella partita la Jugoslavia era stata nettamente superiore a noi, meritava sicuramente di vincere. L'1-1 non si sblocca neppure ai supplementari. Il titolo non può essere assegnato per sorteggio, la finale deve essere rigiocata lunedì 10 giugno. Lo spavento è passato, ma la gara lascia parecchi dubbi negli azzurri. I giorni che separano l'Italia dalla ripetizione della finale sono caratterizzati dalle polemiche sulla formazione, come ricorda Angelo Domenghini. Già nella prima partita contro la Russia c'era stato un infortunio di Rivera e poi c'è stato il cambio con Mazzola che giocava poi al posto di Rivera facendo centrocampista aggiunto vicino a Sisti. E direi che poi quando si tratta di cambiare la formazione ci sono sempre un po' di polemiche. L'ala destra dell'Inter aveva un legame particolare e una grande fiducia nelle capacità del CT Valcareggi di scegliere gli uomini giusti per la nuova sfida agli slavi. Io ero molto legato a Valcareggi, anche perché lui mi ha dato la possibilità di giocare a titolare e io cercavo di contraccambiare questa grande fiducia. Da parte mia c'era un grande attaccamento soprattutto durante la settimana, dei miei allenamenti e poi sperando sempre, perché c'era sempre il dubbio poi magari che non venissi scelto. Però il fatto stesso che Valcareggi mi metteva in squadra, io poi cercavo di contraccambiare la sua fiducia e soprattutto contraccambiare il rispetto della maglia che indossavo per l'Italia. Io cercavo poi di dare tutto me stesso, tutta la mia grande determinazione alla nazionale. Per la gara del 10 giugno 1968 Valcareggi cambia sensibilmente la squadra. Fuori Ferrini, Castano, Giuliano, Lodetti e Prati, spazio a Rosato e Salvadore in difesa, Mazzola a centrocampo, Riva in attacco e spazio anche per il giovane De Sisti, che ha appena due presenze in azzurro alle spalle. Ricordo che Valcareggi mi chiamò e mi disse: qui che oggi non si può sbagliare. Chiaramente con quella frase, al di là della vigilia dell'allenamento che c'era stato, praticamente aveva determinato la mia scelta, la mia entrata in campo, insomma. E io gli ho detto: stia tranquillo che non la deluderò. Le scelte di Valcareggi si rivelano vincenti. L'Italia assume presto il controllo del gioco. Burnic annulla il temibile Zajc e al 13° Riva sigla il vantaggio azzurro. A raccontarlo dai microfoni della Rai, l'inconfondibile voce di Nando Martellini. Domenghini ancora, tiro di Domenghini, Riva, rete! Rete di Riva al 13° minuto del primo tempo. Ha segnato Riva al 13° minuto del primo tempo. Italia 1, Jugoslavia 0. Il raddoppio arriva al 31°. A metterlo a segno Anastasi, allora giovane e talentuoso centravanti del Varese. Mazzola, De Sisti. Domenghini. De Sisti. Anastasi. Rete splendida, rete di Anastasi. Rete di Anastasi, meravigliosa. 32° del primo tempo. Italia 2, Jugoslavia 0. Ha raddoppiato Anastasi. Alla fine il 2-0 scatena l'apoteosi. L'Italia è campione d'Europa per la prima volta nella sua storia. Colpo di testa di Burnic, non riesce, palla Brazic, 15 secondi, cross di Zajc, S. Zoff, para e c'è il fischio dell'arbitro Ordis de Mendeville. Signori all'ascolto, qualunque cosa io ora dicessi suonerebbe di fronte allo spettacolo che sta svolgendosi all'Olimpico, spettacolo che ci porta alla commozione, perché dopo 30 anni la nazionale italiana raggiunge un titolo internazionale, 30 anni che sono state spesso di delusione, di amarezza, ma che in ogni caso possono essere ora bene accettati per la gioia che ci procurano in questo momento. L'Italia è campione d'Europa. Nel ricordo di Angelo Domenghini, la paura della prima gara con gli slavi e la soddisfazione per il successo finale. La grande paura della prima partita, che sicuramente l'Jugoslavia meritava la vittoria. C'era stata superiore sia sul profilo tattico, soprattutto sul profilo del gioco, aveva giocato molto meglio. Noi magari siamo andati in campo con la paura e così, però davanti al nostro pubblico siamo riusciti poi col mio gol a trovare il pari con questa grande fortuna, e poi nella finale siamo riusciti sempre con l'aiuto del pubblico di Roma a portare a casa una vittoria insperata, però nella seconda meritata. Negli occhi di Picchio De Sisti ancora oggi lo spettacolo dell'Olimpico in festa. Come posso dimenticare la fiaccolata finale? La fiaccolata dell'Olimpico fu una cosa commovente. C'è la consapevolezza di aver partecipato alla vittoria della tua nazionale anche tra le mura amiche. Insomma, in quel momento mi sono sentito, non so, un soldato che aveva corrisposto alla causa, insomma, che aveva fatto il massimo perché la sua patria vincesse, insomma, ecco, diciamo una piccola parte del lavoro che sportivamente parlando eravamo destinati a fare. Quindi ecco, questo titolo dell'europeo, diciamo, un pizzico lo sento anche mio, sono orgoglioso di questo. Sarà su quel gruppo di campioni d'Europa che Valcareggi costruirà la nazionale vice campione del mondo ai mondiali del Messico nel 1970. Olimpia, miti e verità dello sport. Sarà la nostra convinzione voler vincere che ci farà appunto, sarà un ottimo viatico. Voler vincere, questo è il tipo di gara che sicuramente ci fa vincere. È ottimismo, quindi quando c'è ottimismo la percentuale è superiore al pessimismo. L'ottimismo di Giovanni Trapattoni alla vigilia dell'esordio europeo è quello che caratterizza la spedizione azzurra a Euro 2004. Le polemiche per la mancata convocazione del bomber del Parma e dell'under 21 Gilardino e per il no a Roberto Baggio sembrano lontane. Il sorteggio ci ha inserito nel gruppo C insieme a Danimarca, Svezia e Bulgaria. La prima sfida è il 14 giugno a Guimarães, proprio contro i danesi. Nel caldo torrido dell'Afonso Henriques, gli azzurri, abituati alla fresca brezza che soffia a Lisbona, sede del ritiro, prima subiscono, poi reagiscono. Alla fine è 0-0, con i due portieri Sørensen e Buffon migliori in campo. Ma il peggio per l'Italia arriva la mattina del 16 giugno. La TV di Stato danese diffonde un filmato in cui si vede distintamente Francesco Totti sputare addosso al suo marcatore, Poulsen. La squalifica prevista dall'UEFA in questi casi è pesantissima. Almeno 4 giornate. Da Roma parte un pool di avvocati per assistere il giocatore, che decide di presentarsi davanti alla commissione disciplinare. L'avvocato Giulia Bongiorno illustra la linea difensiva seguita da Totti. Totti ha voluto iniziare stamattina il suo intervento chiedendo scusa pubblicamente per quanto accaduto. Ha detto di essere molto addolorato per 2 ragioni, non solo per il rischio delle eventuali sanzioni, ma sostanzialmente per una ragione. Ha detto: io, Francesco Totti, non mi riconosco in quel Francesco che avete visto nel video. Francesco Totti non è la persona che viene rappresentata in questi giorni come l'amo o come uno che picchia o che sputa. Francesco Totti è un'altra personalità, è una persona sensibile e che si è impegnata nel sociale. Alla fine la sentenza è comunque durissima. La richiesta da parte dell'accusa era di 4 giornate. Sono state date 3 giornate a Totti, parzialmente quindi sono state accolte le nostre richieste, nel senso che la pena era di 4 o più giornate, quindi sicuramente sono state riconosciute delle attenuanti. Credo che abbia inciso positivamente l'atteggiamento che ha avuto Totti. Molti sperano di ritrovare il giallorosso per le eventuali semifinali. I più realisti capiscono che l'europeo di Totti è già finito. Pregunta-me pelo fado, eu conheci. La sfida del 18 giugno a Porto contro la Svezia, che ha battuto 5-0 i bulgari, è decisiva. Trapattoni lancia dall'inizio Pirlo, Gattuso e Cassano e per un'ora l'Italia incanta. Il talento barese segna al 37esimo, mentre Vieri manca almeno 2 occasioni per raddoppiare. Poi il Trap fa entrare Favalli e Fiore per difendere il vantaggio e a 5 minuti dalla fine arriva la beffa. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Ibrahimovic, spalle alla porta, colpisce il pallone di tacco, infilandolo sotto la traversa dove né Buffon né Vieri, appostato sul palo, riescono ad arrivare. L'1-1 finale fa il paio con il golden goal del coreano Han, che ci buttò fuori dai mondiali 2002. Ricordi che ritornano e si accavallano nel dopo partita di Gianluigi Buffon. Buttare giù due bocconi così amari in due competizioni così importanti agli ultimi minuti non è facile, soprattutto dopo la prova che abbiamo fatto. Per qualificarci agli ottavi non basterà battere la Bulgaria, sconfitta per 2-0 anche dalla Danimarca. Bisogna sperare che il derby scandinavo tra svedesi e danesi non finisca 2-2. In quel caso gli azzurri sarebbero comunque eliminati per il minor numero di gol segnati negli scontri diretti. Intanto alcuni giornali pubblicano la notizia di un battibecco tra Bieri e Buffon dopo la gara con gli svedesi. Il centravanti, in dubbio per la sfida contro i bulgari per un infortunio al ginocchio, smentisce e attacca i giornalisti al seguito della spedizione italiana. Io vi dico una cosa, voi potete parlare a livello tecnico, potete dire gioco bene, gioco male, sono in condizione, non sono in condizione. Mi è mai fregato niente della vostra opinione, perché io non vivo per voi, io vivo per me. Però una cosa è offendere l'uomo, offendere la persona. Questo io non lo accetto. La sera del 22 giugno Italia e Bulgaria si affrontano a Guimarães, mentre contemporaneamente Danimarca e Svezia scendono in campo allo stadio Bessa di Porto. Squalificati Cannavaro e Gattuso, Bieri in panchina bloccato dal ginocchio, Trapattoni lancia Materazzi, Fiore e Corradi dall'inizio, insieme a Cassano e Del Piero. Piove, gli spalti dell'Afonso Henriques sono semideserti, le orecchie incollate alle radioline per seguire la gara di Porto. Bisogna vincere per forza, ma il primo tempo dell'Italia è pura sofferenza. I bulgari sfiorano più volte il gol. Fiore tira addosso al portiere Zratkov da pochi passi, un Del Piero abulico calcia al lato a porta vuota e al 45esimo Materazzi fa fallo su Berbatov in area. È rigore che Martin Petrov trasforma. A Porto Svezia e Danimarca chiudono il primo tempo sull'1-1. A inizio ripresa per Rotta e Mischia segna il pari dell'Italia. Trapattoni si gioca il tutto per tutto e rischia Vieri al posto di Corradi. Intanto a Porto al 66esimo Thomasson segna il 2-1 della Danimarca contro la Svezia. Con questo risultato la vittoria contro la Bulgaria qualificherebbe gli azzurri. Ma all'89esimo al Bessa arriva il gol che gela le speranze italiane. Jonsson batte Sørensen e fa il 2-2 che elimina matematicamente l'Italia. Al 94esimo Cassano, ignaro del risultato del derby scandinavo, infila di destro il 2-1 azzurro sui bulgari. Il barese fa per gioire verso la panchina azzurra, poi, resosi conto dell'eliminazione ormai compiuta, si inginocchia e scoppia a piangere. È l'immagine simbolo del nostro europeo. Negli spogliatoi dell'Afonso Henriques si consuma l'ennesima delusione del calcio azzurro. Il presidente della Federcalcio, Franco Carraro. È una amara eliminazione. Il fatto di uscire con 5 punti da una parte consente di salvare la dignità, dall'altra sotto un certo punto di vista fa ancora più rabbia. Malgrado un impegno grandissimo dei calciatori, abbiamo espresso probabilmente meno di quanto siamo capaci di fare. Molti azzurri recriminano per il pareggio fra svedesi e danesi. Thomasson, Elveg, Jorgensen, Isaksson, protagonisti del nostro campionato, sembrano avere ben imparato le malizie del calcio italiano, come spiega Buffon. Beh, hanno imparato, però ci hanno anche superato, secondo me, perché io sono sempre del parere che nel momento in cui una squadra è senza stimoli, ci può anche stare che faccia vincere un'altra o che non ci metta animosità. Sono anche del parere che se due squadre basta il pareggio possono anche non farsi male, ma riuscire a fare 2-2 da un pareggio a dire 2-2 passa molto, secondo me. Ma c'è anche chi riesce a resistere alla tentazione di cercare facili alibi, come testimonia Alessandro Nesta, uno dei migliori della spedizione azzurra. Abbiamo sbagliato credo la prima partita più che altro, aveva fatto comunque 0-0, usciamo senza mai aver perso. Dispiace perché ogni anno stiamo così a parlare le stesse cose, perché siamo usciti, perché no. Sarebbe, credo, disonorevole attaccarci a un risultato di un'altra partita. Abbiamo perso noi, basta, senza più pensare a altre situazioni. Quello in Portogallo è il passo d'addio di Giovanni Trapattoni alla guida della nazionale. A fallire con lui il gruppo dei cosiddetti nippocoreani, guidati da Totti, Vieri e Del Piero. Per il tecnico e i suoi fedelissimi, l'occasione di riscattare l'eliminazione dai mondiali asiatici del 2002 sfuma nella notte di Guimarães. successo a sorpresa va alla Grecia di Otto Rehagel. I greci battono all'esordio i portoghesi padroni di casa e passano il primo turno eliminando Spagna e Russia. Una qualificazione imprevista al punto che l'intera spedizione ellenica deve trovare in tutta fretta albergo e campo d'allenamento. Nessuno infatti aveva pensato di qualificarsi e di prenotarli in anticipo. Con un gioco essenziale basato su difesa e contropiede, i greci battono la Francia campione in carica e la Repubblica Ceca e ritrovano nella finale di Lisbona il Portogallo padrone di casa, che ha fatto fuori l'Inghilterra ai rigori e l'Olanda in semifinale. A decidere la finale allo stadio Dalous il 4 luglio è un colpo di testa del centravanti greco Karisteas al 57esimo. Per il Portogallo è la fine di un sogno, per i greci un trionfo tanto inaspettato quanto meritato. Il successo nelle parole di una delle colonne della formazione greca, Traianos Dellas, che rende onore al tecnico tedesco Rehagel. Partita dopo partita l'abbiamo creduto tutti, quando siamo arrivati qua, prima della partita, tutti eravamo molto tranquilli e ci crediamo per vincere questa partita. E la Grecia è una squadra, non una squadra che gioca un calcio di spettacolo, ma una squadra che prende risultati. Sicuramente ha portato una mentalità diversa che in Grecia non c'era. Poi ho trovato i giocatori giusti per fare una squadra fortissima. Al loro arrivo ad Atene, un intero popolo festeggerà i protagonisti di una delle più incredibili imprese della storia del calcio.